Thank you. volevamo parlare un po' con voi perché ci sono, non li vedo. Non è la prima volta che veniamo a Piacenza, è sempre un grande piacere. Spero che questo non sarà l'ultima volta perché abbiamo altri progetti, tutti molto belli, fantastici, quindi spero che potreste vedere questi progetti un altro anno. Un altro anno, mi perdonerete il mio italiano abbastanza brutto. E volevo prima di attaccare questo capolavoro di Rakiz in quattro movimenti, Teyad, volevo presentarvi tutti i musicisti che sono qua stasera. Bernard Lesage. Olaf Chope. Claude Ferrier. Keiko Nakamura. Jean-Paul Bernard. Christian Amoui. Thank you. Thank you.